So what happens is I load it up, it locates me, and then it says, what do you want to do? And we think this approximates the way that people, this experience approximates the way that people think about shopping locally. Questa è una spiegazione indiretta di che cos'è Groupon, una spiegazione da questo suo fondatore, devo dire, mi ha colpito, un giovane di 29 anni, molto simpatico e straordinariamente, devo dire, spiritoso, buffo, un uomo simpatico e intelligente. Lo sottolineo perché l'anno scorso vi parlai di Mark Zuckerberg che non mi fece una grandissima impressione. Ecco, sono tutti giovani straordinariamente articolati, intelligenti e in grado, uno immagina, di gestire un'azienda. Certamente ci è riuscito Andrew Mason. Lui aveva cominciato come musicista, poi ha cambiato strada e si è inventato questa idea del coupone, il coupon scontato attraverso il telefonino, attraverso internet. L'idea naturalmente buona ce l'hanno in molti. Qual è la differenza? È che come un generale che organizza le sue armate, Andrew Mason ha investito i quattrini che riusciva a raccogliere dai suoi finanziatori per organizzare a tappeto una struttura operativa. Pensate che l'anno scorso aveva 1500 dipendenti, adesso ne ha 8000. Quindi ha avuto una crescita esponenziale, sta investendo nella ramificazione di questa sua struttura, è presente in 43 paesi e ha degli accordi di distribuzione con 57.000 negozi locali. Groupon vuol dire vendita locale.